bentrovati a tutti coloro che ogni tanto hanno il piacere di venire ad essere ospitati dalla stanza del nonno, che come sapete, anzi come forse non sapete, non è proprio la mia stanza, non sono io il nonno. Il nonno non sono io, il nonno esiste veramente. Per fortuna esiste veramente e dorme nella stanza dove io ho cominciato a immaginare questo programma. E infatti qualche volta, se avete fatto caso, la scelta musicale è piuttosto notturna, perché lui viene a letto molto tardi e io in qualche modo posso andare avanti fino all'una, qualche volta fino alle due, e quindi certo, la musica a quell'ora, la musica che il cuore ti suggerisce è diversa da quella che ascolteresti a quest'ora, in questo momento, no? Completamente diversa. Anche tossire, bisognerebbe tossire con una certa, come dire, con un certo ritmo, no? Perché è ovvio, se hai un colpo di tosse non puoi all'improvviso, che fai, chiudi il microfono, no, non ce la fai, devi tossire. Almeno fallo con un minimo di ritmo. Stavo pensando a una cosa, vediamo se mi riesce. Questa è la famosa ormai sigla della stanza del nonno. È una sigla che probabilmente ogni tanto mi capiterà di cambiare all'improvviso, perché è anche abbastanza umorale. È sempre sul batterista, lo so. Benvenuti nella stanza del nonno. È un brano che in questi giorni ho scoperto, che non conoscevo affatto, che si chiama Blaubert. Non so nulla di questo, di questa orchestra Tu Poussin Marcel Duchamp, non so quasi nulla, però il sound mi piace da morire. Allora adesso io lo cerco, vediamo se lo trovo, e la sigla è finita, quindi possiamo perfettamente metterlo. Certo, Blaubert. Bellissimo. Mi piace questo suono ripetitivo che c'è. Non male. Oh, Mi piace moltissimo, sì. Blubber, che scoperta che si fa ogni tanto, no? Gironzolando per questi nuovi sistemi di ascolto di musica, diciamo Blubber, molto, molto, molto interessante. E... e siccome la sigla è di un certo Buck Powell, chissà che Mauro Verrone nel suo nuovissimo disco che sta per uscire e sta per essere presentato, in questo caso con una big band, un poco bad, è come un poco loco. Mauro Verrone. Thank you. Mauro Verrone Big Band, da un disco che sta per uscire e manca veramente poco, e noi invece ce ne andiamo a curiosare fra i solchi di un disco che è uscito un sacco di tempo fa, di un ragazzo che non è più un ragazzo purtroppo, però continua ancora a suonare, è uno di quei pianisti che mi fanno impazzire di gioia, e si chiama Herbie Hancock. Anche lui qui con una big band molto ben distribuita. Siete nella stanza del nonno, che non sono io. Edita al microfono con voi. I have a dream. Proprio dedicato a lui, che in quell'epoca fu ucciso. Non ricordo più storicamente se prima o dopo Bob Kennedy. Dimentico sempre di dirvi che c'è un modo con il quale potete interagire con noi, che non è la telecamera, non è Facebook, non è il web. Da un certo punto di vista abbiamo pensato di eliminare tutte queste apparenti non barriere, ma invece secondo noi grandi barriere dal punto di vista dell'attenzione a quello che si ascolta. E quindi la possibilità di fare di darci un colpetto sulla spalla, se tutto va bene, secondo voi, è il 3791-880-880. Thank you. possiamo immaginare un enorme studio di registrazione. Con una quantità enorme di musicisti. I Have a Dream, da un album di qualche tempo fa di Herbie Hancock. Brano che vorrei che voi andaste a cercare su tutte le stazioni in FM, in digital, in questo momento. Chi è che la manda in onda? Noi. E basta. Se ne trovate un'altra, vi prego, fatemelo sapere. Sapete quanta gente c'è in giro che ha ancora voglia di ascoltare alla radio questo tipo di musica? Non che deve essere completamente tutto così triste o pesante, no? Si può anche alleggerire moltissimo l'ascolto della musica. Quello che bisogna assolutamente tentare di fare è uscire dai canoni nei quali ci stanno chiudendo sull'ascolto. Sono sempre le stesse cose, c'è sempre lo stesso sound. E invece bisogna avere uno sguardo oltre i 360 gradi, anche sopra e sotto, non soltanto intorno. Perché veramente i musicisti sono tantissimi. E così come la letteratura, come i libri, la musica riesce a andare a cogliere le nostre improvvise emozioni nei momenti più disparati, più impensabili. Qualche giorno fa non avrei mai pensato di poter mandare in onda questo brano. L'avevo messo in scaletta, ma non ero ancora mai riuscito a metterlo. Eppure, a un certo momento, se ne vedono le condizioni, no? Sì, vabbè, lo sto rovinando con la mia voce. Magari in questo momento ci sono tantissimi musicisti che vanno in giro per il nostro paese, per la nostra città, a fare questa musica e nessuno la ascolta mai, perché non ha abitudine all'ascolto di questa musica. E poi improvvisamente loro stessi si trovano ad incontrare la nostra radio e ci si fermano perché trovano qualcosa che parla anche al loro cuore. Ma ciò non vuol dire che questa musica non parli al cuore di chi questa musica non l'ascolta mai. Ci vuole qualcuno che in qualche modo ti prenda per mano e ti dica non aver paura, la puoi ascoltare e guarda, probabilmente, inaspettatamente, potrebbe piacerti. Herbie Hancock, I Have a Dream. Quante volte avete sentito questo brano? Solo per chitarra? Thank you. la stanza del nonno. China Crisis, Flaw and the Imperfection. Mi piacerebbe avere qui in studio tutti i miei idoli di Rai Stereo Notte e anche un paio di Supersonic. Presto organizzerò. Più ne parlo, più li perdo. Devo chiamarli presto. Vorrei avere Alberto, vorrei avere la signora De Santis, vorrei avere Castelli, almeno i China Crisis, questi pensieri mi fanno venire in mente. C'è una signora che in un certo periodo è stata una delle prime ad andare a Parigi a vedere come stesse il cantante dei Doors, e questa signora si chiamava, e si chiama tuttora, immagino, Marianne Faithfull. Yeah. am faithful. Broken English. What are you? La stanza del nonno, la stanza del... La radio che non c'era, dico sempre. Tracy Thorn. Yeah, my head is my only house in Desiree. Una fantastica voce incastonata in un gruppo straordinario come era. Forse ancora, non ho sentito delle cose nuove. The Everything But a Girl. Succede che quando si va a scoperchiare il posto dove c'erano The Everything But a Girl, che ho trovato con questo brano che si chiama My Head is My Only House Unless It Rains, e allora viene voglia di sentire un'altra cosa da un album che si chiamava Eden. Ah, che periodo musicale straordinario quello. Sade, Everything But a Girl, Style Council. And the name has to go. Married with kids and they don't want to know about the dreams you had to let go. You're still waiting for a night in shiny armor to steal you against your will. How are you waiting and doing no harm? You know there's plenty of time. Change a day, makes me wonder where I went astray. Happy with things that leave me tired worries unlike as frost and fire. And now you say you start to see me, pictures of things that you could have been, torches I find I'm burning for you. Up so easily, what little they leave us to lose. And if I didn't have the fire to struggle, I could freeze in your shoes. When I say I couldn't live that way, you must wonder where I went astray. Happy with things that leave me tired, worries unlike as frost and fire. Fire, everything but a girl. Un sound tranquillo, no? When I say I couldn't live that way, you must wonder where I went astray. Happy with things that leave me tired. Quello che manca a me certe volte è quello di comprendere i testi. E dovrei andare a leggerli, ma ci sono delle traduzioni talmente orribili che mi viene tanta nostalgia di gente come Carlo Massarini o Fiorella Gentile, che durante le trasmissioni di Per voi giovani o di Popoff erano in grado di tradurre i testi delle canzoni con una certa straordinarietà. Ebbene, quindi, chi è? Dove siamo entrati? Siamo dal vivo con... Oh! Mrs. Nina Simone. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever, and I'll be so glad. Someday I know he's coming back to call on me. He's going to handle me and hold me so. It's gonna be like dying Pogie, Daddy deep inside me. But when he comes, I'll have to go. I love you, Poggy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I wanna stay here with you forever, cause I've got my Nina Simone dal vivo a Love You Porgy. Siete nella stanza del nonno, ci sono dei personaggi che improvvisamente scompaiono dalla faccia della terra, no? E hanno lasciato magari musicisti, hanno lasciato magari qualcosa di interessante che viene riscoperto anni e anni dopo. Ne hanno fatto un bellissimo documentario che ha vinto anche un bel premio, al quale ho partecipato come voce narrante di alcuni personaggi. Il personaggio, il cantante, si chiamava Sisto Rodriguez, credo che sia scomparso addirittura da poco. Hanno riscoperto un album favoloso che aveva avuto grandissimo successo in Australia, soprattutto in Sudafrica, e lo ascoltiamo perché ogni tanto così perdiamo di vista qualcuno che abbiamo conosciuto tardi e magari non abbiamo avuto il tempo, il coraggio o la voglia di andare a sentire qual era il suo modo di esprimersi. I Think of You, Sixto Rodriguez. Just a song we shared out here brings memories back when you were here, of your smile, your easy laughter, of your kiss, those moments after. I think of you and think of you. Think of you. Of the dreams we dreamt together, of the love we vowed would never melt like snowflakes in the sun. My days now end as they begun with thoughts of you, and I think of you, and think of you. Down the streets I walked with you, seeing others doing things we do. Now these thoughts are haunting me of how complete I used to be. And in these times that we're apart, I'll hear this song that breaks my heart and think of you. I think of you and think of you and think of you and I do. Sisto Rodriguez, un artista che ha avuto un lontanissimo successo in Sudafrica, un artista di cui nessuno si ricordava più, e poi qualcuno è riuscito a ritrovare i suoi nastri, è riuscito a ritrovare le sue canzoni, è riuscito a ritrovare i suoi fan, e così ha riportato alla luce la sua musica. Gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui g play, bukai, poof, do my time, bukai, do my, bukai, do my galabe, galabe, bukule, galabe. Notte ci ha insegnato volgere lo sguardo altrove, in tanti altrovi. Esistono gli altrovi? Non lo so. E viene assalito da delle musiche che si contaminano, si mescolano, delle musiche che probabilmente non conoscevi e non conoscerai, e invece ti imbatti poi in una radio che si chiama Radio, dove arrivano dei suoni che ti catturano e non sai perché. È fatta così la musica, eh? Ecco perché bisogna sfuggire dal cosiddetto mainstream. Soprattutto non avere paura, guardandosi intorno, di imbattersi in cose impreviste. E questa che c'entrava? Che c'entra con quello di prima? Nulla? Forse molto più di quello che noi possiamo immaginare in questo istante. E ci fa piacere? Ci fa piacere ascoltarla in questo momento? A me sì, forse anche a voi. Dave Brubeck Quartet. We'll be right back. Questa è la stanza del nonno. Sì, no, non sta dormendo, quindi non c'è bisogno che io abbassi così tanto la voce. Questo che parla è Edith, Enrico, De Troyes, francese, no? Oh, devo svelarvi un segreto. È vero che la stanza del nonno esiste veramente, però questo è un nonno speciale, perché dovete sapere che questa, che voi direte, ma che cos'è questa musica stramba, è una delle proposte musicali che gli piace di più. Io sono rimasto sorpreso. Drone, Echo Theory, altro disco scoperto così per caso. Uno dei dischi preferiti dal nonno della stanza. Sentivamo poco prima, era Jana, da un disco di Hector Zazu con Eva Quartet. E adesso siamo entrati in questa sonorità drone. Com'è per radio questa musica? Difficile? In macchina? A casa? Altrove? Com'è? Fatecelo sapere. Via WhatsApp a me, se volete, su Facebook, sempre su Edit Tide, ma anche al 3791-880-880. C'era un paese che si reggeva sull'illecito. Non che mancassero le leggi, né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno dicevano di condividere. Ma questo sistema, articolato su un gran numero di centri di potere, aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati. E questi mezzi si potevano avere soltanto illecitamente, cioè chiedendoli a chi li aveva, in cambio di favori illeciti. Di tanto in tanto, quando meno ce lo si aspettava, un tribunale decideva di applicare le leggi, provocando piccoli terremoti in qualche centro di potere e anche arresti di persone che avevano avuto fino ad allora le loro ragioni per considerarli impunibili. In quei casi il sentimento dominante, anziché di soddisfazione per rivincita della giustizia, era il sospetto che si trattasse di un regolamento di conti di un centro di potere contro un altro centro di potere. In quel paese di gente che si sentiva sempre con la coscienza a posto, gli onesti erano i soli a farsi sempre degli scrupoli, a chiedersi ad ogni momento che cosa avrebbero dovuto fare. Sembra scritto ieri, no? come si usa dire. E invece sono passati più di 30 anni da quando Italo Calvino scrisse queste parole. Immaginò questo apologo, qui riproposto soltanto in parte. Da allora molte cose sono cambiate in Italia, ma solo nella superficie delle cose. Giù nel profondo quasi tutto è rimasto come lo scrittore denunciava. La corruzione è ancora molto diffusa e su chi osa richiamare l'esigenza di una maggiore pulizia di costumi, in particolare per chi ha responsabilità pubbliche, cade l'accusa di moralismo giacobino. Il peggiore degli insulti in un paese dove vige un rifiuto totale, addirittura rabbioso, di ogni impegno morale, dove si disprezzano i richiami etici per meglio giustificare un malcostume che ovunque in Europa sarebbe considerato intollerabile. E qui invece si tenta di far passare per un disinvolto stile di vita. Come disse una volta Corrado Alvaro, la disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile. Ringraziamo il Signore che ha messo a disposizione le sue parole. Ringraziamo Mr. Augias. È un libro molto interessante che si chiama Il disagio della libertà, uscito qualche tempo fa. Domandandosi e cercando di costruire la tesi sul perché agli italiani piace tanto avere un padrone. Un disco abbastanza dimenticato. Vabbè, sono suoni di un certo periodo. Forse adesso questi suoni potrebbero essere meno presenti. Questa è la stanza del nonno. Edith al microfono con voi. Un classico. St. James Infirmary. Da Allen to Sane. Song. Da un album che si chiama Mississippi, St. James Infirmary, un classico del jazz della zona del Mississippi. E prima abbiamo nominato Marianne Faithfull, che forse è stata una delle ultime a vedere vivo il signore che si chiama Jim Morrison. Jim Morrison, Ghost Song. Awake, shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity, first thing you see. A vast radiant beach and a cool jeweled moon. couples naked race down by its quiet side, and we laugh like soft, mad children smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. They croon, the ancient ones, the time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Questo di Jim Morrison, An American Prior. Indians scattered on dawn's highway bleeding. Jim Morrison. Crowd the young child's fragile eggshell mind. E c'era un personaggio che gironzolava con la chitarra e che tutti dicevano: ma sì, è uno che scopiazza Bob Dylan. E un giorno si incontrarono Bob Dylan insieme a Donovan in un albergo e cominciarono a suonare insieme. E Donovan aveva una sua particolarità, una sua personalità piuttosto interessante. Tiny piece of colored glass. Lucio Battisti, per esempio, racconta che Donovan lo ha frequentato tantissimo e andando a scovare fra i dischi di Donovan ho scoperto un'ispirazione per una famosa canzone di Lucio Battisti. Almeno l'inizio della chitarra sembrava proprio ricostruito da quell'ispirazione. Donovan. And the girls will Jersey Thursday on Jersey Thursday. Molto più morbido, come l'ha detto lui, no? Jersey Thursday. Tiny piece of colored glass, my love was born. And reds and golds and yellows were the colors in the dawn. Night brought on its purple cloak of velvet to the sky, and the girls were wheeling, spinning on Jersey Thursday. Radio Centro Idea. La stanza del nonno. Un album molto interessante, ne sta uscendo un altro di questo gruppo. Un gruppo guidato da Edoardo Nordio al basso. Brano tratto dal precedente album si chiama Bad Lane. Pochi minuti ci separano dal finale. Bisogna iniziare, ma anche a un certo punto concludere. E la conclusione potrebbe essere, vediamo un po', difficile scegliere ogni tanto quando non è che hai le idee confuse, hai la testa piena di musica e in questo istante che cosa uscirebbe fuori? Cosa vorresti far conoscere a qualcuno che magari non lo conosce? Intanto Edoardo Nordio, che è quello che sta suonando in questo momento col suo gruppo, il brano si chiama Madeleine, e sta uscendo un nuovo album e spero che presto verrà qui alla stanza del nonno a presentarlo, ci farebbe molto piacere. Ma queste cose mi piacciono molto. E ho avuto la fortuna di conoscere questo gruppo. Questo gruppo in una formazione abbastanza particolare. Uno straordinario chitarrista che purtroppo non c'è più, un simpaticissimo bassista, un batterista e il tastierista, ma due cantanti straordinari. E forse questa lei è proprio quella che conosco. E hanno rifatto delle cover di brani famosissimi. Sound abbastanza tranquillo. Nouvelle Vague. When it turned we always sight. It's a diamond fat fruit. Every feeling roll dry. In the surface of being. Very fruit of all life. And love, love it to resolve. Caso è Eloisia, Nouvelle Vague. Love Will Tear Us Apart. Era di qual era questo gruppo? Mi sfugge in questo istante. Bellissimo questo sound, bellissima questa idea di ripercorrere questi brani che sono stati famosissimi nella musica punk rock e anche di altri generi. Like This, un brano che forse non c'entrava niente in questo istante, ma c'è Michael Brecker al sax. E sì, c'era gente di qua, gente di là, non si riusciva a farli andare via. Sai quando fai le feste, no? Che si fermano tutti in un posto e tu stai lì, buonasera, andate, arrivederci. Vabbè. This is not a love song. Lo so, sarà anche... non è una canzone d'amore, ma... io vi devo salutare. Big business is very wise. I'm crossing over into enterprise. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love. My new rule, I'm getting better and better. I have a new goal, I'm changing my ways. Where money applies, this is not a love song. This is not a love song. Ma ringrazio signora, non è una canzone d'amore, non è quello che volevo, però io la devo salutare. La posso salutare? Ho la macchina in doppia fila e devo andare. Arrivederci. Arrivederci. Alla prossima, nella stanza del nonno. Ciao. I'm happy to have, not to have, not big business is very wise. I'm inside free enterprise. This is not a love song. This is not a love song. I like your stories. Lo so, avevo detto che me ne andavo, però in fondo io sono ancora qui. Sono ancora qui a caccia di musica. Samarcanda Digital Network. Edit al microfono con voi. Questi sono i Nouvelle Vague che ci stanno snocciolando alcune bellissime cover che hanno realizzato. Quella di prima, Too Drunk to Fuck, nell'originale erano proprio rovinati praticamente, no? I classici inglesi se ne vanno a bere. Vanno a bere, che vanno a fare? Vanno a bere, no? Siete abbastanza curiosi, io vi farei riascoltare l'originale da cui era stata presa Too Drunk to Fuck. Loro erano i Dead Kennedys. I like the stories. I love the gun. Shoot it after twice as I love the world of fun. But in my room, wish you were dead. You fall like a baby in a razor head. I do the run to fuck. I do the run to fuck. Do the run. But it's all I need right now to drive the fuck. Beh, è bellissima la versione dei Dead Kennedys, ma qui succede... qui qualcuno si è sentito male, purtroppo. Sì, succede, no? Una novità. Novità assoluta, appena uscita. I saw the to look. Having read. È uno spettacolo questa rimasterizzazione. Bellissimo il basso, bellissima la batteria. Alla voce di John. Mi è venuta in mente questa canzone perché l'ho sentita fischiettare da Carlo Verdone in una trasmissione poco tempo fa. Mi hanno chiesto qual è una cosa che ti è piaciuta tantissimo nella vita. Lui fischiettava questa canzone qua. Effettivamente è stato un momento rivoluzionario, era il 1967. L'album è Sgt. Pepper's. Lonely Hearts. Club Band. E adesso un'altra piccola novità che vado a rubare da un album che è stato messo insieme da un certo Bruce Springsteen, che è andato a recuperare dei nastri di dischi che nel momento in cui li ha incisi. Oh, finalmente hanno rifatto quello che succedeva alla fine del solco, no? Di questo disco Sgt. Pepper's, quindi c'era questa frase che ritornava. Dicevo, Bruce Springsteen ha messo insieme una serie di brani che in un certo periodo della sua vita non voleva, non riteneva giusti fargli uscire. Scusate se ho parlato sull'attacco di questa canzone che si chiama Ike Sierra e lui è Bruce Springsteen. Samarcanda, Digital Network. I was down on my luck, so down on my luck. Packed my bags and left big city and trouble I'd seen. Took the highway north, trying to find some place where the air felt clean. I came upon that little cafe in the early spring, whereas you came through the door above a little bell would ring. She was waiting there in the high Sierras, flower in her long black hair in the high Sierras. And I'd been down on my luck, so down on my luck. It was laughter and wine and warm endless nights in that little motel. I could have stayed there the rest of my life. Found a job at the filling station. She worked at the luncheon. In the evening she'd set the table as I washed off dirt and sweat. And it was good as it gets, just as good as it gets. We were happy there in the high Sierras. So happy there in the high Sierras. And I'd been down on my luck, and she lifted me the blood seeping through. At dusk she'd set the silverware for the morning shift. She'd sit on the motel porch with a beer and cigarette. The summer nights would drift, seasons pass, the winter snow melted and come the early spring. The luncheonette she'd look up from the counter each time that little bell would ring. Siamo atterrati su una serie di nastri che erano stati messi da parte, oh, so happy there, e che sono giustamente in questo momento, in questa fase storica, ritirati fuori. Devo dire che queste canzoni sono molto belle. Qualcuno mi ha suggerito dei titoli da scegliere. Uno è High Sierra, che stiamo ascoltando. Bruce Springsteen. Dal nuovo cofanetto, che potete assolutamente prendere ad occhi chiusi. Almeno chi è appassionato a colui che entra nel cuore la poetica di Bruce. L'altro pezzo che mi hanno consigliato è Sunliner, sempre tratto da questo cofanetto straordinario di nastri perduti. Il periodo più o meno è quello di Born to the USA. Prima sui Novel Bug credevo che il tempo a mia disposizione fosse terminato e invece non era vero, e quindi ho continuato a proporvi della musica. Questo sembrava proprio il brano per poter chiudere la trasmissione, ma vediamo se è meglio questo. Sir, I'm a pilgrim, a stranger in this land. Once at home, my salvation was at hand. Sapete che faccio? Questo brano me lo tengo per la prossima volta. E vi saluto sul serio, veramente, riproponendovi Sunliner, che è proprio un brano. È un brano che aiuta alla chiusura del programma. E io vi ringrazio ancora di essere stati con noi, con Samarcanda Digital Network, con radiosamarcanda.it. Siamo sul DAB, siamo Radio Samarcanda. Ci trovate anche su TuneIn, ancora con il vecchio nome, Radio Centro Idea, ma insomma, siamo sempre noi. Beh, siamo sempre noi. Siamo ancora di più noi. siamo più belli, più bravi. Questa radio sta crescendo giorno per giorno, gli ascolti aumentano un poco per volta, perché non è facile, la radio non è più ascoltata come una volta, ma ci sono degli orari stranissimi che vengono assolutamente riempiti dalla vostra curiosità, e questo mi fa tanto tanto tanto piacere. Grazie ancora, Edith vi saluta e ci risentiamo prestissimo. Sapete che ormai gli appuntamenti sono abbastanza come posso dire, sono tanti. Ci sentiamo tante volte durante la settimana nella radio. Scopriteli guardando il nostro palinsesto. Nel frattempo, un abbraccio grande, grande, grande. Ammazza Bruce Springsteen quanto è bravo.